Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, si ricomincia dunque, perché con la vittoria nel derby l'Inter, che ai primi di dicembre era, pensate, a meno 15 dalla Juventus, adesso è a meno 6. E con un intero girone di ritorno a giocare, più la partita di domenica prossima, che è l'ultima d'andata, è evidente che a questo punto anche l'Inter è rientrata potenzialmente in corsa, ed è la grande novità di una giornata in cui, visto l'esito appunto del derby di Milano, la Juventus ha sprecato un'occasione rara di staccarsi in vetta, perché è vero che ha preso un punto di vantaggio, ma due li ha lasciati per strada, nonostante fosse passata in vantaggio con un magnifico gol fin dall'inizio, e nonostante poi una direzione di gara, come dire, non proprio ostile, e questo lo sottolineo perché nelle ultime domeniche, nelle ultime settimane, ci sono stati molti interventi vostri qua in studio all'800240024 che sottolineavano un trattamento con i guanti arbitrale nei confronti del Milan, però ieri direi che anche l'altra capolista a un trattamento del genere ha avuto diritto. Qualche numero di Franco Piantanida. Allora, vabbè, c'è questa nota cromatica, effettivamente, per fortuna della Juventus. Credo che le squadre rosso-blu siano finite, perlomeno sono finite quelle che devono presentarsi a Torino, per altrettanti pareggi, gli unici pareggi. Bologna, Genoa e Cagliari, che la Juventus, a cui la Juventus è stata costretta in casa. In queste tre occasioni è sempre stata rimontata, cioè aveva sempre sbloccato il risultato, però è anche vero che è arrivata a 18 giornate consecutive senza sconfitte, e che per la Juventus è un record storico. Nell'era dei tre punti c'era riuscita solo l'Inter del 2007 e del 2008. Se parliamo invece di Milano, Milito ha nel Milan il suo bersaglio preferito da quando è in Italia, 5 gol in 7 partite. Vi ho già detto del meno 6 partendo da meno 15, ma il 5 dicembre scorso, quindi in 40 giorni, e poi considerando la sosta in un mese scarso, è indubbiamente una rimonta di primissimo ordine. E poi c'è questa nota caratteristica di Ranieri, che nei derby di Torino, di Roma e di Milano è imbattuto e ha uno score di 9 vittorie e 4 pareggi, che sono davvero tanti. Un dato che deve far riflettere il Milan certamente è questo: non ha vinto con nessuna delle prime squadre del campionato, perché ha perso con la Juve, con l'Inter e con Napoli, e ha pareggiato con Udinese Lazio, e questo mi sembra forse di questo girone d'andata ormai quasi ultimato, mi sembra il dato più significativo, perché per la squadra favorita, tuttora favorita per la vittoria del titolo, non battere nessuna delle dirette rivali e anzi perdere 3 su 5 non è un bel segno. Poi ci sono molte altre curiosità su cui ci soffermeremo più avanti tra un intervento e l'altro dei vostri, e io partirei nel riascolto delle voci più significative della giornata, partirei proprio da Milano, e sentirei la sincera missione di Abate, perché insomma è chiaro che l'errore decisivo nel derby è stato lui a commetterlo. Abbiamo fatto un buon primo tempo, anche se non eravamo brillantissimi, però sicuramente gestivamo bene la palla, abbiamo creato 3-4 palle gol importanti il primo tempo. Potevamo sbloccarla, poi dal mio errore si è sbloccata la partita e non siamo più riusciti a essere padroni del gioco, in quanto loro difendevano tutti dietro la linea della palla, volevamo più fare azioni singole invece che giocare da squadra. Se anche voi riconoscete che non era il solito Milan questa sera, evidentemente siamo altri. No, non era il solito Milan, era un Milan che aveva la consueta, non tendenza, il consueto obbligo morale quasi, no? Di condurre la partita, di avere iniziativa, su questo non c'è dubbio, ma in maniera abbastanza scontata, in maniera prevedibile, in maniera macchinosa, e soprattutto mi è sembrato con una condizione atletica complessiva meno brillante rispetto a quella dell'Inter. I ringraziamenti di Moratti al suo allenatore Ranieri. Lui è un uomo saggio e quindi sa fare, ha fatto la cosa giusta sempre, e anche con me ha proprio nei dialoghi che abbiamo, che non è spessissimo, però interviene con tempo giusto, trovo che abbia una grande saggezza, e che lo capiscono anche i giocatori, quindi hanno fiducia, e questa è la cosa principale, avere fiducia nella persona che ti guida. e quindi lo ringrazio. Ma noi siamo ancora col pensiero al fatto che eravamo a quintultimi o sestultimi, non so che roba, e adesso siamo lì, quindi no, noi stiamo facendo il nostro campionato, vediamo come va. Mi pare che il merito principale di Ranieri sia stato quello di ripartire dalle fondamenta, no? Come si usa o nei momenti in cui si costruisce una squadra oppure nei momenti a maggior ragione di crisi. Ieri sera la coppia Samuel Lucio, mi pare che, o Lucio che dir si voglia, mi pare che abbia funzionato e come. Anzi, mi è sembrata quella dei tempi migliori dell'Inter, anche perché sì, non erano in serata né Ibra né tantomeno Pato, però insomma, diciamo che è anche più facile sentirsi disinnescati quando giochi contro una coppia centrale del genere, tra l'altro ben protetta davanti da Thiago Motta e da Cambiasso e con il brasiliano esterno, con Maicon che è tornato a essere lui. Mi sembra questa la... E se l'Inter ritrova la sua spina dorsale è per questo che secondo me è autorizzata a rifarci seriamente un pensierino. Poi la potenzialità del Milan rimane certamente superiore, a patto magari di non complicarsi la vita, no? Perché io credo che la serie di autogol che il Milan sul piano ambientale si è organizzato in settimana, credo che abbia pochi riscontri nella storia di questo club, perlomeno in tempi recenti. Io credo che il comunicato di Pato rivisto ieri sera, no? Dopo la partita di ieri sera, il comunicato di Pato che appare nel momento in cui quel disgraziato dei Galliani sta finalmente concludendo l'accordo col Manchester City, insomma, io credo che neanche i fichi d'India sarebbe venuto in mente una gag di terzo ordine come questa. Le confesso, scrive Massimo Pin, sono arrivate moltissime mail che mi esaltano quelle partite nelle quali si possono ammirare difensori fortissimi che respingono tutti gli attacchi e si percepisce chiaramente che hanno scritto in faccia: da qui non si passa. Ieri il Milan era poca cosa, non sprecherei iperboli, ma pensando allo sciagurato capitano della Costa pensavo che Lucio e Samuel non sono certi tipi da ammadonare la nave in difficoltà, e questo a me piace. Nessuno ha parlato del gol ingiustamente annullato all'Inter, scrive Roby da Vercelli, faccia giustizia. Guardi, io la faccio a modo mio, nel senso che per i parametri attuali quel gol era nettamente buono, il gol di Thiago Motta. È chiaro che avrebbe orientato la partita in maniera diversa. Io personalmente mi auguro che continuino a annullarli quei gol lì, ma anzi che li annullino sempre di più, perché comunque quei due uomini in fuorigioco a cui la palla può tranquillamente arrivare, sono un disturbo per la difesa, sono un disturbo per il portiere, sono un inquinamento ambientale, sono un motivo di discussione in più, insomma, le hanno tutte addosso. Sicché, ripeto, il gol era regolare per i parametri nevrotici attuali, in cui basta, bisogna aspettare a sollevare la bandierina per essere ben certi che il pallone arrivi fin lì, certo, ma nel frattempo però tu hai sballato tutti i movimenti difensivi degli altri. Questo sinceramente non mi pare di grande aiuto alla qualità del gioco, non correttezza da parte di chi difende o di chi attacca, perché è giusto le regole usarle a proprio vantaggio. Andrea Padova, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Allora, io faccio tre punti brevissimi, dopodiché mi ascolto una sua risposta per radio, per sentire come la pensa. Premetto, io sono milanista da 25 anni ormai. E la prima cosa, si parla tanto della rinascita dell'Inter, per carità, sono 6 vittorie consecutive, pochi gol subiti eccetera, però senza quell'orrore di Abate ieri sera probabilmente staremo parlando di un pareggio adesso. Il secondo, onore e merito appunto all'Inter, che ha una difesa che nelle ultime 3 partite mi sembra abbia subito 0 gol e che ieri sera, schierando 4 centrali più Cambiasso, che ha stato secondo me il migliore in campo, ha ottenuto questo risultato e meritato, l'ha difeso. La terza considerazione su Allegri: tutti sono tanto contenti del rinnovo di Allegri. Secondo me, dopo le frasi di ieri sera, che gli servono rinforzi perché il centrocampo non è all'altezza, diciamo, mi ha lasciato un po' perplesso, perché sfido chiunque a dimostrarmi che qualsiasi giocatore di quelli che ha giocato ieri sera nel Milan non troverebbe spazio come titolare nella Juve, che è l'altra capolista. Io su spazio tra nel centrocampo della Juve, in questo momento magari in cui Pirlo, Marchisio e Vidal stanno accusando una flessione di rendimento, non c'è dubbio. Io credo che con Pirlo no, perché gliel'hanno dato, ma Marchisio penso che il Milan saprebbe cosa farsene. Ma al di là poi dei paragoni, l'errore di Abate, certo, non c'è dubbio. Era una partita equilibrata, l'Inter non ha fatto quasi nulla per vincerla, ha certamente fatto di più il Milan sul piano delle intenzioni, però è un brutto segno per il Milan perdere queste partite. E anch'io ho avuto qualche perplessità sulla formazione del Milan, ma non lì, cioè io credo sia un periodo in cui se vedi Pato nell'undici titolare qualche perplessità ce l'hai a prescindere, insomma. Per esempio, a parte il ruolo di Boateng, a parte qualche altra considerazione, bisogna vedere in questo momento quanto si sente forte Allegri, che scoria ha lasciato questa settimana, in cui sì c'è stato il suo rinnovo contrattuale ufficiale, però c'è stato anche qualche altro problema ambientale. Gianni dalla provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno, ringrazio Radio 24 per avermi chiamato. Due considerazioni e un suo parere su Conte. Cioè, le due considerazioni sono: sostituisce sempre, poi ne ha parlato lei con la sottotitolo precedente, sostituisce sempre le punte, mentre per il gioco che sviluppa, per me molto dispendioso, forse meglio sarebbe cambiare centrocampista. Seconda considerazione: sta distruggendo Matri per utilizzare Del Piero. E adesso qui un suo parere esperto, che Caranzini, Del Piero entra sempre a risultati negativi, sono stati sempre risultati negativi, per sostituire Matri. Però Conte non lo fa mai direttamente, per far entrare Del Piero ha fatto sempre due cambi. Lei cosa ne pensa? Perché società questo? Non saprei, sinceramente non saprei, credo che Conte abbia le idee molto chiare sul suo genere di calcio, poi sul genere di calcio che lui predilige in rapporto anche agli uomini che ha a disposizione, non è detto che queste idee siano chiarissime o condivisibilissime. Certo, mi pare che fin qui i risultati ne abbiano prodotti. Altrettanto evidente è che Del Piero meno gioca e più si allontana da una condizione accettabile. Cioè, io credo che ieri l'errore sottoporta su quel colpo di testa, tra l'altro in netto fuorigioco, ma insomma il fuorigioco non l'aveva segnalato, quindi era una palla gol clamorosa, sia frutto proprio anche di ruggine, no? di poca abitudine ormai alla partita vera, insomma, alla partita che conta. E la stessa sensazione, anzi di più, me l'ha data una di quelle punizioni finali in cui lui e Boriello sono rimasti piantati proprio come pali della luce davanti, e si sono fatti fischiare contro un offside, ma non sul genere di quello interista che arrivava uno da dietro, no, lì non arrivava proprio nessuno, c'erano solo due fermi da davanti e basta, ed è bastato un mezzo passetto in avanti di un centrale cagliaritano. Questo mi è sembrato un altro segnale un pochino inquietante. Cambiamo un attimo genere, proviamo a sentire qualche frammento di ieri alternativo che introduca magari altre discussioni. Beh, insomma, la Fiorentina l'ha combinata grossa certamente con Lecce, e il Lecce ha fatto, per la prima volta torna forse in tutta la stagione a poter sperare di agganciare qualcuno più su. Sentiamo sulla contestazione violenta, spero proprio, ma dura, dei fiorentini, sentiamo Della Valle. Non ce l'aspettavamo, perché poi venivamo da due prestazioni ottime, e poi tutto il resto, ragazzi, i tifosi fanno bene a essere delusi, fino a quando si è delusi, fanno bene a contestare quando si è ancora una contestazione che può mandare dei messaggi costruttivi, poi se qualcuno offende, ma ci sta, insomma, 10 anni che sono qua, non è quello. Adesso dobbiamo pensare come ripartire, pensare questa settimana importante, abbiamo tante trattative in corso, quindi lo sapete benissimo, non bisogna farsi mettere fretta, anche se, ripeto, oggi è stata una doccia fredda. Ha fatto di più Escharavi in 10 minuti che Pato in 80. Perché insistere sul brasiliano, si domanda Max Davigevano. Bella domanda, in questo momento una vera bella domanda di rara attualità, direi. Andrea ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno Gigi, complimenti per la trasmissione, vabbè, ma sono sempre scontati. Perdoni Gigi, io vorrei farmi una domanda. Io sono ormai, mi ritengo simpatizzante del calcio, perché non lo sono più da qualche anno, quello tifoso. Ma ieri sera ho visto il derby e francamente, a parte il fatto che ho visto una partita brutta, e vabbè, ma seconda cosa, mi leva una curiosità, io non so se ne faccia più parte della rosa, ma perché noi annoveriamo tra le nostre fila, io sono simpatizzante rossonero, un difensore come Zambrotta e un altro come Bonera? La prego, mi dia una risposta, poi magari si farà una minima risata come nel suo stile e mi dirà lasci perdere. No, non lo capisco, giuro. Beh, non lo capisco, sono due giocatori... non sono titolari, almeno in teoria non è titolare nessuno dei due, sono giocatori di rosa, sono giocatori d'esperienza, sono giocatori che se li chiami sono pronti, certo. Credo, lei mi pare di capire di sicuro, io probabilmente preferirei avere tra gli incalzi da chiamare in causa ogni tanto dei giovani del vivaio, magari promettenti. Però è anche vero che se Taiwo, no, che doveva essere il signore padrone della corsia di sinistra, invece non funziona, allora ripeschi Zambrotta o Antonini. Certo, lei dice potrebbe essere Antonini anziché Zambrotta. Sì, magari sì, però dato che io non credo all'autolesionismo, se gioca Zambrotta ci sarà tuttora il suo perché. Bonera magari diciamo che non ha nemmeno il passato di Zambrotta, però in compenso è un polivalente perché può fare tutti i ruoli difensivi e secondo me questi sono i jolly ideali come caratteristiche, poi bisogna vedere il rendimento. Fabrizio, provincia di Ancona, buongiorno. Sì, buongiorno. Due cose rapide. La prima su Pato, che secondo me gioca perché è il futuro genero dell'ex Premier, che per fortuna nostra è anni al Milan e non più all'Italia. L'altra considerazione è questa: ieri c'è stato in Cesena Novara, lei lo sa, se ne sono accorto sicuramente, il rigore del 2-0 è arrivato un minuto dopo un clamoroso fallo di mano a metà campo, che era anche passibile di ammonizione davanti agli occhi dell'arbitro, che non è stato sanzionato. Se fosse capitato, mi scusi se la interrompo e poi smetto, se fosse capitato una cosa del genere alla Juve, all'Inter, al Milan, nel derby di Milano, ne avremmo parlati per 8 anni o anche 10, voglio dire, un'altra Calciopoli avremmo fatto. Sì, adesso senza esagerare, perché Calciopoli è durata, cioè le premesse di Calciopoli sono durate anni, quindi non vediamo di non esagerare. Però è indubbio che l'arbitro di ieri a Cesena, che non so più se era Doveri o era... o Doveri o come si chiama, o chi altro, adesso vediamo, ha commesso un errore, un doppio errore grave, perché il mani del Cesenate era evidente, era volontario ed era fallo e ammonizione, non solo, ma rigore una comica dopo, perché sul rigore chi era Candreva, che si sposta la palla a rientrare in quella maniera, questo e va a cercare le gambe con una evidenza, le gambe dell'avversario, con un'evidenza notevolissima, un doppio grave errore di quell'arbitro, su questo non c'è proprio dubbio. Era Valeri l'arbitro di Cesena Novara di ieri, pessimo davvero, nonostante sia uno dei giovani più quotati, ha sbagliato giornate, può capitare. Non è che l'abbia azzeccata molto nemmeno Calvarese, quello di Firenze, non tanto per l'episodio decisivo, perché il rigore di Natali ci può tranquillamente stare, quanto per non aver espulso Vargas, cioè supponiamo che lui fosse leggermente distratto o in quel momento fosse girato, ma il quarto uomo è a due passi e siamo sempre lì, ma perché questi vigili urbani non danno una mano al loro collega che invece ha il fischietto in bocca? Vargas mi auguro che sia è certamente passibile, mi auguro che torni a manifestarsi la prova televisiva e che gli rifinino una serie di giornate di squalifica, perché il suo calcio in faccia, in bocca, è un calcio in bocca a questo disgraziato di Leccese, è veramente una roba da plurisqualificazione, più giornate di squalifica. Antonio, provincia di Napoli, buongiorno. Antonio, paura che la linea sia sia caduta. Sentissimo, no, ci sono tanti altri collegati, ma mi stavo dimenticando di sentire Di Carlo, perché, perché la vittoria del Chievo, se guardiamo la classifica, mi pare che con la vittoria di ieri il Chievo abbia ripreso molto, ma molto ossigeno rispetto alle concorrenti per la salvezza. Di Carlo. Bisogna fare complimenti alla squadra che continua a crescere, continua a fornire prestazioni di quello che sappiamo fare noi. Abbiamo vinto a Udine raggiungendo noi un quarto di finale dove possiamo entrare nella storia del Chievo, forse riuscendo a battere il Siena, e questa domenica qui, cambiando ancora altri giocatori, 7, 8, 9 giocatori, siamo riusciti a fare un'altra buona prestazione che dà il valore a questa squadra, soprattutto perché sta lavorando bene, tutti si sacrificano, tutti corrono, tutti riescono a essere aggressivi e tutti riescono a giocare anche a due tocchi e in velocità, che sono le caratteristiche che poi magari possiamo mettere in difficoltà l'avversario. Certo, Emiliano scrive: ma non trova assurdo che in Serie A ci sia un campo come quello del Bentegodi a Verona? Il sintetico non potrebbe fare al caso, guardi, potrebbe fare al caso qualsiasi materiale, basta non giocare più su quel campo osceno veramente che è il Bentegodi di Verona, e questo vale sia per la Serie A per il Chievo che per la B per il Verona. Se poi parliamo di Chievo-Palermo, mi fa notare Franco Piantanita giustamente che Zamparini aveva dichiarato che con Mangia in panchina aveva paura di retrocedere. Beh, si domanda con Mutino, un pareggio due sconfitte per un tecnico che nelle ultime due stagioni, e qui sono statistiche alla mano, è retrocesso tutte e due le volte. Pazienza nel Bari l'anno scorso quando era subentrato a retrocessione ormai quasi avvenuta, ma l'anno precedente con l'Atalanta. Bruno ha chiamato da Rimini, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Le confermo che io sono ambrato a Cesena, Valeri ieri è stato pro Cesena, passiamo oltre. Sono un tifoso del Milan, quindi posso vedere la partita con un occhio di parte. Ma volevo la sua opinione su due episodi. Uno, che l'ho sentito prima, è il gol annullato. Dal mio punto di vista, qualsiasi giocatore che è in linea oltre passa la linea dei difensori, che va incontro alla palla e non retrocede, è un fuorigiocativo, perché non è che non partecipa. La stessa situazione la vediamo quando ci sono giocatori che vanno a contrastare l'ultimo uomo, basta che si muovono verso la palla e verso l'uomo, fischiano. La stessa cosa, secondo me, dovrebbe avvenire, sono d'accordo. Perché sennò abbiamo due interpretazioni completamente diverse. Uh-huh. E l'altra cosa, invece, onore all'Inter perché ha vinto meritatamente, nonostante noi abbiamo avuto più possesso palla, però la coppia difensiva che è stata ottima. Samuel ha fatto 4-5 falli, due erano sicuramente tutti e due in ammonizione. Quando ha brancato Emanuelson, che poteva scattare il contropiede, era da ammonizione, e l'altro precedente in gioco molto pericoloso era da ammonizione, ma ne bastava uno, io non prendo l'ammonizione, perché sa che giocare con un'ammonizione sulle spalle avendo 60 minuti di partita dietro è diverso che non giocare. Sì, liberi. Questo è vero, questo ha certamente ragione, però mi sembra che Orsato sia... È stato molto bravo ed è stato coerente, perché ha usato questo metro dall'inizio alla fine, ha cercato di lasciare scorrere il gioco. È una tattica, un'impostazione tattica arbitrale molto rischiosa in una partita calda come non può non essere un derby. Però l'ha padroneggiata fino alla fine, quindi direi che la scelta è stata giusta. Poi sì, è vero, Samuel si è fatto sentire, sono fatti sentire un po' tutti ieri sera quando capita, però io non ho visto grandi scorrettezze vere da punire, no? E quindi alla fine ha avuto ragione Orsato, che non a caso è stato giudicato il migliore in campo, e devo dire ci voleva poco, visto il livello complessivo degli attori di ieri sera. È stato più bravo il regista, non c'è dubbio. Gabriele Sondrio, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io sono un tifoso interista e volevo chiederle, alla luce della partita di ieri, come può cambiare il futuro e il mercato dell'Inter, perché diciamo che da Benitez in avanti la società non ha fatto mercato, secondo me ha sbagliato gli interventi per migliorare la rosa, e ieri l'Inter con grande forza e grande tenacia si è aggrappato ai senatori, no? Quindi dicevamo Lucio, Samuel, Cambiasso e Maicon. Però credo che insomma la benzina presto finirà, e come può la società intervenire, soprattutto insomma spinta da questa bella vittoria di ieri, come il presidente Moratti può intervenire sul mercato per migliorare la rosa. Gli auguro di star fermo sia per il fair play finanziario che per le effettive necessità che l'Inter secondo me non ha in maniera particolare, cioè si guardasse bene da Tevez, così come possibilmente se ne guardi il Milan, cioè se ne guardino tutti, secondo me nel rapporto qualità-prezzo e nel rapporto qualità-prezzo e anche nel rapporto poi tumulti ambientali e intelligenza e saper vivere del soggetto, ma io non vedo grandi lacune, cioè nell'Inter di ieri sera è vero che ha costruito la sua vittoria sulla difesa e sulla vecchia guardia difensiva, sì grazie, però deve rientrare un certo Sneijder che insomma, a pallone più o meno sa giocare, però Forlan guarito dall'infortunio io credo che potrebbe essere una risorsa non da poco. Se poi c'è qualche rincalzo, c'è qualche alternativa buona a metà campo, soprattutto perché Stankovic credo che ne abbia un infortunio lungo, allora è un altro discorso, sì, ma io studierei alternative semmai, e qualche alternativa in casa c'è già, no? Anche quindi non vedo questo grande bisogno di rinforzi. Credo anche che quando una squadra riesce a far leva sull'orgoglio e su una ritrovata autostima come sta facendo l'Inter in questo momento, ma insomma toccare quegli equilibri e quei meccanismi per il gusto di accontentare i fanatici del mercato non so se sia una grande mossa. Claudio Bologna, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo solo dire questo, sono un tifoso del Cagliari, mi piacerebbe che si potesse mettere la regola che ogni allenatore durante l'arco della partita avesse due volte la possibilità di vedere la moviola in campo. Perché lei, perché lei è un bolognese, quindi... No, io sono bolognese e tengo per il Cagliari. No, ho capito, lei è un bolognese, quindi arrivando dalla città del basket per eccellenza, lei esatto. Ha bisogno di time out, ha bisogno di cose... No, è che così sì, parecchie discussioni si eviterebbero. Durante l'arco della partita ci sono due episodi che un allenatore può a sua discrezione valutare con la moviola per vedere se la palla entra o non entra, se c'è fallo o se non c'è fallo, tutto lì. Mi piacerebbe, ecco. Sarà difficile perché sennò poi non si possono speriamo Claudio che il calcio non faccia la fine del basket, speriamolo dai, o del baseball o del football americano come qualcuno invocava l'altro giorno, speriamo che il calcio riesca a rimanere se stesso con i suoi margini di errore. Antonio dalla provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Io la mia domanda era su Ranieri, però volevo un attimo dire, comunque la moviola non è che sarebbe una cosa tanto sbagliata in campo. Vabbè, no, comunque come no? Volevo chiederle, oddio, sono un po' emozionato, mi perdoni. Comunque, Ranieri, il senso è questo, Ranieri, io non sono tifoso dell'Inter, ma ho una grandissima stima per Ranieri e mi piace tantissimo come allenatore e come uomo. Lei pensa che invertendo cioè Mourinho e Ranieri, Mourinho sarebbe riuscito a rialzare l'Inter come ha fatto Ranieri, e Ranieri con quella squadra lì a vincere quello che ha vinto Mourinho? Non so se ho reso l'idea, mi scusi, un po' l'imbarazzo. Scusi me se non riesco ad appassionarmi a questo genere di domande, se non riesco ad arrampicarmi su queste questioni. Non ci sono le controprove, non. Quanti scudetti avrebbe vinto Trapattoni se non avesse allenato la Juventus e poi l'Inter e poi il Bayern eccetera eccetera, e se Mazzone invece avesse allenato le squadre di Trapattoni ne avrebbe vinti di più o di meno, non avrebbe vinto mai. So, c'è chi si appassiona a questi, no? A queste tematiche. Io sinceramente non ci riesco e non me ne dispiace nemmeno, sinceramente. Nello, leggo bene. Sì, ha chiamato la Parma. Buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Un onore di parlare con lei. Da Pavia, allora, Pavia, non Parma. Chiedo scusa, dica. Allora, io avrei voluto dirvi per il fallo che è successo con la Lazio, no? Lì l'arbitro poteva non vedere, ma come giocatore poteva dire guarda che non mi ha toccato, invece ha fatto una sceneggiata da morire. Tutto qua, grazie, ascolto per radio. Nulla di nuovo sotto il sole, caro Caronello. Che ci vuol fare? A tempo di sport. 16 gennaio, Nicola Filippone. Sembra ieri. 16 gennaio 1938. Il fiumano Ezio Loic, 18 anni, esordisce in Serie A con la maglia del Milan. I rossoneri pareggiano 1-1 con il Liguria, grazie a un gol siglato proprio dal giovane debuttante. Loic disputerà 3 stagioni con la maglia del Milan, che però poi lo lascerà andare a Venezia, dove formerà con Valentino Mazzola un asse di qualità in mezzo al campo. I due passeranno insieme in maglia granata nel 1942, diventando la spina dorsale del grande Torino. Già, qualche altra curiosità statistica da questa giornata. Beh, intanto il Lecce ha 12 punti in classifica e 11 li ha fatti in trasferta, 11 su 12, non so se era mai accaduto niente di simile. Giovinco, il suo nuovo record personale di gol in campionato, non siamo nemmeno alla fine del girone d'andata e ne ha già segnati 8, superando quota 7 che era il suo record precedente lo scorso anno. E ancora, garanzia di spettacolo, sempre ammesso e tutto sommato concesso che i gol siano spettacolo, sono le sfide di Marassi tra Genoa e Udinese. Nelle ultime 6 partite, nelle ultime 6 edizioni di Genoa-Udinese a Marassi 24 gol, quindi 4 gol di media spaccata, grazie anche ai 5 di ieri che la media l'hanno leggermente alzata. Il Genoa è la squadra con più espulsioni del campionato, quella di Rossi è la 7ª stagionale, va anche detto che quella di ieri davvero, davvero non c'era. A proposito dei record stagionali, Klose è arrivato a quota 10 in campionato. Ora, nel suo glorioso passato c'erano anche altri numeri, ma se parliamo delle ultime stagioni ha già eguagliato il 2007-2008 e 2008-2009 con la maglia del Bayern e anche in questo caso, come per Giovinco, gli manca ancora un po' più nel girone di ritorno. Massimo, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno, scusi, vado un po' su un altro tema. Una piccola curiosità, ma perché non è stata recuperata la partita Catania-Roma che mancavano solo 25 minuti ieri, considerando che non c'è questa settimana Coppa Italia e poi comporta rifare il viaggio, la mobilitazione di persone? Non l'ho capito, è possibile sapere? Ma non lo so, sarà problemi loro, Massimo. Comunque non è vero che non c'è Coppa Italia questa settimana, perché mi pare proprio si sia Juve-Roma giovedì, quindi già questa sarebbe una buona ragione. E l'altra buona ragione è che il meteo annunciava, e credo che abbia mantenuto anche se poi ho un po' perso di vista, credo abbia annunciato e mantenuto il fatto che la pioggia, ma la pioggia forte, battente su Catania, sarebbe continuata anche domenica, e quindi le condizioni del campo che erano assolutamente di impraticabilità sabato sera sarebbero durate, se sarebbero riproposte anche l'indomani. Massimo, provincia di Bergamo, era lei, grazie. Alessandro da Roma, buongiorno. Buongiorno Gansini. Senta, una domanda, sento dire che le rimonte non riescono quasi mai, ma in effetti io mi ricordo, ero molto piccolo, l'Inter di Gianni Invernizzi che vinse lo scudetto rimontando al Milan, con la famosa tabella di Facchetti fatta in aereo tornando da Catania? No, dunque lei ha parlato dell'Inter di Invernizzi? Sì, quella del 70-71, sì, la tabella era, poi vabbè, sì, anche questo non è che sia fondamentale, credo che la tabella fosse di Corso più che di Facchetti, poi in realtà comunque era una tabella dei giocatori dell'Inter. Sì, rimontarono in quell'occasione, ma era già la seconda rimonta storica che l'Inter compiva ai danni dei cugini, perché ce n'era una nel 63-64 precedente, quando il vantaggio del Milan forse era persino più consistente nei confronti dell'Inter, eppure anche in quell'occasione l'Inter rimontò, nonostante il mio, quello fu un campionato paradossale, perché allora era un altro calcio, si giocava in 11 anche allora come adesso, però diciamo che oltre a quegli 11 ce n'erano pochini, no? di altri giocatori. Allora il Milan in quel giro dell'andata aveva perso un certo José Altafini, che non era proprio l'ultimo della pista, per vicende contrattuali. Altafini si era rifugiato in Brasile da uno zio, se non ricordo male, e non c'era verso di richiamarlo. Cosa fece? Il Milan fece giocare un rincalzo giovane che veniva dal vivaio, che si chiamava Paolo Ferrario, detto Ciapina, e con Ciapina Ferrario il Milan andò in testa della classifica a suon di gol di Ferrario. Quando il Milan è in testa e ha 7-8 punti, non ricordo quanti, ma tanti punti di vantaggio sull'Inter, ed è già cominciato il girone di ritorno, Altafini, figlio del prodigo, torna, e quindi a quel punto è evidente che a maggior ragione non ce n'è più per nessuno. Campionato l'ha vinto l'Inter, perché Altafini di gol ha segnati pochi e Ferrario ha smesso di segnare i suoi. Pensi un po' com'era il calcio una volta. Daniele, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno, riguardo l'argomento dei rigori, è proprio una valutazione che riguarda tutte le squadre praticamente. A me sembra che ci siano davvero in giro tantissimi simulatori, tant'è che anche quando un rigore viene poi dato, ed è evidente, sembra evidente, c'è comunque sempre una buona, grande dose di simulazione o accentuazione da parte di questi atleti che sfiorati hanno poi dei crolli verticali, dei dolori atroci, si contorcono, insomma. Credo che ci sia anche questa componente da valutare, che poi l'arbitro spesso magari è tende a non dare il rigore perché pensa di essere tratto in inganno. Ecco, era una valutazione così. Sì. Buona giornata. Grazie a lei, no, non inedita, me lo consenta, perché insomma da che mondo è mondo, e in qualsiasi sport di squadra e quindi di contatto, chi subisce un fallo tende ad accentuarlo, vale anche in altre discipline, eh? Chi subisce un fallo tende ad accentuare, e chi commette tende invece a, chi lo commette tende a, come dire, a depotenziarlo, no? Perlomeno da un punto di vista visivo. Questo fa parte delle regole del gioco. Gianluca, Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. Niente, l'ho chiamata perché proprio stamattina, parlando con dei colleghi, si discuteva della moviola. Prima ho sentito un radioascoltatore che diceva che sarebbe stata opportuna. Io praticamente, appunto, come parlavo questa mattina, penso che il calcio sia bello anche perché ci sono quei 90 minuti giocati, ma dopo c'è tutto un mondo dietro che secondo me verrebbe a mancare se ci fosse la moviola. Forse è proprio bello anche questo del calcio. Io escludo invece che verrebbe a mancare, sì, no, capisco Gianluca e condivido. Io escludo però che verrebbe a mancare, perché la moviola nella maggior parte dei casi non risolverebbe nulla. Diverso è la risolvere invece l'annosa questione dei gol non gol, e cioè piazzare telecamere, sensori, qualsiasi cosa si possa, purché certa e definitiva, sulle linee di porta. Allora sì, tutto il resto non cambierebbe nulla, diretta a me. Si gioca in Coppa Italia Milan-Novara mercoledì, Inter-Genoa giovedì, Juventus-Roma è il 24 gennaio, quindi è la settimana prossima. Avevo commesso un errore in precedenza. Sentiamo velocissimamente Cristiano da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamato. Io volevo solo segnare il fatto che il Milan in panchina, nella rosa, ha due giocatori come Sharawi e Inzaghi che praticamente non giocano mai. Vedendo i risultati di un Pato, di un Robinho, mi domando, Allegri ha in mente solo quei due o tre giocatori da far giocare davanti e gli altri sono... Ci sarà il suo perché, Cristiano, che è un perché che magari è difficile da accettare quando il Milan non fa gol, e invece è perfetto quando il Milan fa gol e vince. Parliamo sempre di una squadra che è secondo in classifica a un punto. Grazie a Fabio Cantadoni in regia, grazie a Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio e appuntamento regolarmente a domani. A tempo di sport.